dottore, ti scrivo perché non hai mai tempo per parlare. Caro dottore, ti scrivo per dirti che vorrei tanto incontrarti quando sei libero dal lavoro. Voglio dirti che al di là del bisogno di te per me, c'è affetto nei tuoi riguardi. Voglio dirti che, anche se ci conosciamo poco e per te sono uno di tanti, io ti rispetto. E a mio modo vorrei fare qualcosa per te, anche se lo so, i beni materiali o i ringraziamenti non possono ripagare tutto quello che fai. Caro dottore, scusa se sono egoista e troppo spesso penso solo a me. Lo so, per te fa lo stesso perché io sono uno, tu sei salvezza e dolore, sei amarezza e rancore, sei l'odio e l'amore, la paura e il terrore. Ciao dottore. Sulla terra siamo utili, sulla terra siamo futili, sulla terra siamo piccoli, sulla terra siamo unici. Plurimi, multipli, semplici, partecipi e vivi.